Buonasera cari radioascoltatori e benvenuti ad un'altra puntata di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Un saluto da Annalisa in studio e da Giulio in regia. Ciao Giulio e grazie. In collegamento dovrebbe esserci Alessandra. Ciao Alessandra. Ciao Annalisa, buonasera amici radioascoltatori e un grazie a Giulio in anticipo. Dunque, cari radioascoltatori, iniziamo questa puntata di Giro di Boa questa sera con un giro in barca, un giro in barca a vela per l'Oceano Pacifico. Vi chiederete di cosa sto parlando. Questa sera abbiamo in collegamento qui da Bruxelles Carlo e Lizzi, che sono appunto giunti appositamente dall'Italia qui a Bruxelles per presentare questa sera e domani sera alle Cercle des Voyageurs il loro documentario 20 anni in giro per l'Oceano Pacifico in barca a vela. Carlo e Lizzi sono i fondatori dell'associazione Barca Pulita, nata nel 1992, sono autori di diversi documentari e di libri sui quasi 20 anni che hanno trascorso in giro per il mondo in barca a vela, e dovremmo averli entrambi o uno di loro in collegamento in questo momento. Mi sentite? Eccomi qua, io ci sono, lì si sta parlando e non c'è, ma ci sarà più tardi. Buonasera Carlo e benvenuto a Giro di Boa. E dunque, stavo dicendo ai nostri radioascoltatori, siete alle Cercle des Voyageurs per presentare il vostro documentario, è appunto in questo istante, ma ci sarà una presentazione anche domani sera alle 20.30. Una prima domanda, ovviamente la prima domanda che sorge spontanea: come avete iniziato a navigare in barca a vela attorno al mondo? Che cosa vi ha, diciamo, spinto a mollare tutto per dedicarvi a questo? Beh, non è andata proprio così. Tu devi sapere che noi 22 anni fa vivevamo a Milano, facevamo un lavoro uguale a quello di tanti altri, con la camicia, la cravatta, le scrivanie, la Lizzi con i tacchi, e io avevo un sogno da tanto tempo, che era quello di fare il giro del mondo in barca a vela. Un giorno ho commesso l'errore di confidarglielo e gli ho detto: sai, io prima o poi partirò con una barca a vela per fare il giro del mondo. E lei mi disse, a quel tempo noi non eravamo neanche fidanzati, e lei mi disse: se tu vai io vengo. E sembrava uno scherzo, guarda che io dico seriamente, io ho questo sogno, ma se tu dici che vieni io vado. E lei disse: va bene, andiamo. Allora, da quella fatidica sera passarono 2 anni, durante i quali noi cercammo una barca, la comperammo, trovammo il modo di sistemare i problemi di lavoro e di famiglia, e 2 anni dopo siamo partiti per fare il giro del mondo, che nella nostra intenzione doveva essere semplicemente un sabbatico di 2 anni all'interno di una vita normale. Abbiamo fatto quel giro del mondo che invece che durare 2 anni è durato 3 anni e mezzo, perché sai, il mondo è meraviglioso, e se tu in ogni posto bello del mondo dici: guarda che bello questo posto, proviamo a fermarci un giorno in più, 2 giorni in più, la somma di tutti quei giorni lì moltiplicato per il numero di posti belli che si incontrano con il giro del mondo in barca a vela ha fatto un anno in più. E quando siamo tornati eravamo cambiati, le nostre aspettative di vita erano cambiate, il fatto di vivere 3 anni e mezzo in mezzo agli oceani, in mezzo al vento, in mezzo alla natura, ci aveva fatto diventare diversi. Allora, a quel punto, appena tornati abbiamo scritto un libro, e intanto che scrivevamo il libro cercavamo lavoro. Fortuna o sfortuna vuole che abbiamo finito di scrivere il libro prima di trovare lavoro, il libro è stato pubblicato, è andato bene, e da lì è cominciata la nostra nuova vita di, noi ci chiamiamo, cantastorie multimediali. Perché il libro è andato bene e noi siamo ripartiti in una nuova barca con l'idea di raccontare tutto il mondo attraverso gli occhi di chi con una barca a vela va a cercare le cose più belle. Dunque Carlo, se non sbaglio sono diversi anni, cioè più di 20 se ben ricordo, che siete in giro per il mondo. Quanti chilometri, quante miglia marine avete percorso? Li avete calcolati? Sì, questa è una domanda difficile, no, esattamente non le ho mai calcolate, però più o meno saranno 100.000 miglia, perché noi abbiamo fatto tutto un giro del mondo e poi da quando siamo ripartiti è come se ne avessimo fatti altri 2 o 3, anche se in realtà non giriamo più intorno al mondo come delle trottole, ma facciamo dei percorsi avanti e indietro per gli oceani alla ricerca delle cose, quelle lontane, lontane, lontane, quelle dove è difficilissimo arrivare, dove... Poi, ma qui è arrivata Lizzi che ha appena finito di introdurre il nostro secondo filmato, per cui io, se tu sei d'accordo, la passerei con i saluti. Un secondo, avrei una domanda per te. Sulla vostra barca non avete bisogno di un mozzo? Io posso fare qualsiasi cosa, mozzo, lavapiatti... Guarda, ce lo dicono in tanti. Immagino. Però poi non viene mai nessuno. A vedere il vostro sito viene proprio una gran voglia. Non viene mai nessuno, perché in realtà noi nel sito e nei documentari e nei libri parliamo solo delle cose belle, poi la fatica, le zanzare, il caldo, insomma le cose quelle un po' meno belle nella memoria si dimenticano. Buonasera Lizzi, ci senti? Eccola qua, te la passo. Pronto? Buonasera Alizia, benvenuto anche a te a Giro di Boa. Grazie mille. Carlo ci stava raccontando di come avete iniziato, diciamo, questa attività, ha parlato del primo libro che avete scritto, ma voi appunto avete scritto non soltanto libri, ma anche avete anche prodotto e realizzato documentari, appunto quello che presentate in questa sera, Le Cercle des Voyageurs, si intitola 20 anni in giro per l'Oceano Pacifico in barca a vela. Ecco, vuoi raccontare ai nostri radioascoltatori che cosa sta accadendo in questo istante alle Cercle des Voyageurs e appunto parlare un attimo del documentario? Sì, noi in questo qui è diventata negli ultimi 20 anni la nostra attività principale. Facciamo documentari che giriamo mentre siamo i 6 mesi che siamo via e montiamo quando siamo in Italia. In questo momento sta andando in onda un estratto di un documentario che racconta di un atollo che si chiama Aiu in mezzo all'Oceano Indiano, dove ci siamo arrivati assolutamente per caso, ogni tanto ci vogliono anche questi colpi di fortuna per arrivare a trovare dei posti meravigliosi che sennò uno non si sognerebbe neanche che esistessero, che esistano. Sul vostro sito Lizzi c'è un link ai luoghi più belli che avete visitato, immagino sia forse impossibile farne una lista o enumerarli, ma puoi cercare di dare qualche esempio ai nostri radioascoltatori. Guarda, è impossibile dire cosa è il posto più bello. Io ti posso dire quello che a me è rimasto più nel cuore, anche perché era un momento storico particolare. Quando noi siamo arrivati in Eritrea la prima volta, l'Eritrea era appena tornata ad essere l'Eritrea, per cui si viveva, io credo, il momento più bello che si possa respirare in uno Stato, in una nazione che usciva da una guerra di 30 anni, fratricida, si ritrovava lì a costruirsi pezzetto per pezzetto. Io mi ricordo che abbiamo chiesto, possiamo andare a vedere queste isole? Ma chiediamo al ministro del turismo. Dopodiché il ministro del turismo fa, ma non lo so, aspetta, andiamo a vedere dal presidente. E c'era questo stato nascente che era stupendo, poi meraviglioso, con tutte queste strutture ancora un po' italiane, vabbè, che a noi ci avevano fatto un po' impressione. Ecco, ho un ricordo meraviglioso, penso che nel cuore sia una delle cose più belle che mi sono rimaste, come luogo. Poi, sai, invece se parliamo dal punto di vista umano, ogni luogo è meraviglioso perché ha la sua storia e non ti posso assolutamente dire che uno sia migliore dell'altro. A fianco alle cose belle che hai ricordato, probabilmente avete avuto anche esperienze un po' tristi o magari anche particolarmente dure. Qual è magari il momento più difficile che in questi 20 anni, credo ne avete avuti tanti, ma quello che ti ha segnato maggiormente per la drammaticità o per la durezza del momento stesso? Ma guarda, noi abbiamo momenti di fatica tanti, momenti di durezza, diciamo che quando noi abbiamo vissuto l'11 settembre, anche se eravamo in barca, forse perché eravamo in barca impotenti in mezzo a, ci sono arrivate le stesse notizie, ci ha fatto più impressione, direi che quello lì è uno dei momenti. Però devo dire un altro momento invece al contrario, che non è per niente un momento di barca, che però noi abbiamo appreso in barca, quando Barack Obama è diventato presidente degli Stati Uniti. Ecco, lì c'è stato un momento, eravamo in barca in un posto isolatissimo con un'altra barca e non so, per nessuno era americano, comunque voglio dire, nessuno era direttamente coinvolto, tutti e due abbiamo vissuto questa cosa con un passo avanti dell'umanità, poi si vedrà, insomma, però sono due momenti particolari. Purtroppo in questo momento però ti devo lasciare perché io devo ritornare dentro a parlare. Preferirei stare qui che parlo in italiano, devo andare a parlare in inglese, non so che guaio farò e ti saluto tantissimo. Grazie, ci ripassi Carlo? Ciao, alla prossima. Sì, certo, ciao. Eccomi, scusate, sì. Carlo, ti vorrei fare una domanda, ma qual è la vostra prossima rotta quale sarà? La nostra barca in questo momento è alle isole Fiji, noi siamo ancora qui perché lì è stagione dei cicloni, quindi è pericoloso navigare, torneremo alla fine di maggio e andremo dalle Figi fino in Kiribati, che è uno staterello composto da una ventina di atolli al centro del Pacifico, e poi non lo so, non l'abbiamo ancora pensato. Le decidete a tavolino prima di partire le vostre rotte o sono proprio... Diciamo che il 60% della rotta è deciso prima a tavolino, è studiato, perché per fare queste rotte qui comunque bisogna procurarsi il massimo della documentazione disponibile, che a volte non è molta, ma un po' c'è, comunque ci vogliono le carte nautiche, i portolani e così via. Poi quel 40% che manca lo creiamo lungo la strada anche parlando con i locali, perché a volte proprio stando fermi tanto tempo nelle isole, diventando amici dei locali, si vengono a raccogliere informazioni su quello che c'è nell'isola successiva, cioè quello che ti dice, sai, in quell'isola là io ci andavo da piccolo, fanno una pesca particolare, allora noi raccogliendo queste informazioni poi andiamo a cercare le cose che sono le più belle, le più curiose, le più interessanti. Carlo, non ci resta che augurarvi buon viaggio per il e noi vi ringraziamo tanto. Grazie Carlo, e non mi resta ovviamente che augurarvi buon proseguimento con la proiezione di questa sera, e non mi resta che ricordare ai nostri radioascoltatori che domani sera, 23 aprile alle 20.30, alle Cercle des Voyageurs ci sarà un'altra proiezione, appunto i documentari di Carlo Auriem, Elizzi e Ordeg, 20 anni in giro per l'Oceano Pacifico in barca a vela. E cari radioascoltatori, potete anche trovare maggiori informazioni su Carlo Elizzi, sulla loro associazione, sui viaggi che hanno fatto, sui documentari e i libri disponibili al loro sito www.barcapulita.org. Perfetto. Buona serata e alla prossima. Buona serata e buon viaggio. Grazie mille, buona serata a voi. Ciao, ciao. Cari radioascoltatori, siete tornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Un Giro di Boa sempre al passo dell'attualità. Questa sera ci occuperemo della nube di Cenere, che da giovedì 15 aprile a martedì 20 aprile ha bloccato il traffico aereo in Europa. Nube di Cenere proveniente dall'Islanda, causa un'eruzione di un vulcano nell'isola. L'Associazione Internazionale del Trasporto Aereo ha stimato che questo ha causato danni per 250 milioni di euro al giorno. Nel momento più critico, dice l'associazione, la crisi ha avuto un impatto sul 29% del traffico aereo mondiale e ha avuto un effetto e un impatto su un po' più di 1 milione di passeggeri al giorno. Il direttore dell'Associazione Internazionale del Trasporto Aereo, Giovanni Visignani, ha detto che questa emergenza ha superato gli effetti dell'11 settembre, quando lo spazio aereo statunitense era rimasto chiuso per 3 giorni. Ha avuto senso lo stop al traffico aereo? Quali sono i problemi che può causare la cenere vulcanica ai motori degli aerei? Com'è possibile gestire in futuro emergenze simili qualora si ripresentassero? Questa sera ne parliamo con 2 esperti. Sì, esatto, Annalisa, ne parliamo con 2 esperti. Che sono i nostri ospiti di questa sera. Presentiamo subito il primo, che è l'ospite più lontano in collegamento dagli Stati Uniti, Warner Marzocchi. Warner, mi sente? Sì, la sento benissimo. Bene, perfetto. Buonasera, grazie mille per essere nostro ospite a Giro di Boa questa sera. Dunque, Warner Marzocchi è dirigente di ricerca presso l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, nonché co-chairman dell'Organizzazione Mondiale degli Osservatori dei Vulcani. Il secondo ospite, già anche lui in collegamento con noi dall'Italia, è il professor Visconti Guido. Guido, mi sente? Sì, sì. Buonasera, grazie mille anche a lei. Buonasera. Per intervenire nella nostra trasmissione. Dunque, Guido Visconti è direttore del Centro di Eccellenza Tecniche di Telerilevamento e Modellistica Numerica per la Prevenzione di Eventi Severi dell'Università dell'Aquila. Presso la stessa università è professore ordinario di fisica dell'atmosfera dal 1994, è autore di numerose pubblicazioni su riviste internazionali, oltre che di diversi libri. Una primissima domanda per entrambi gli ospiti. Domenica scorsa voi avreste volato? Warner, magari, incominciamo con lei. Sì, io sabato ero a Parigi e domenica sono tornato indietro in macchina perché non avevo la possibilità di fare questa scelta. In realtà il problema dal mio punto di vista era le poche informazioni che avevamo a disposizione e soprattutto anche le grandi incognite che erano in gioco. Mi spiego meglio, io ero a Parigi per lavoro, ho avuto l'occasione di parlare con alcuni ingegneri dell'Airbus e con il Ministero dell'Ambiente in Francia, e in realtà uno dei problemi grossi è che si sa come la cenere può causare dei danni agli aerei, ma non hanno la minima idea di quali sono le caratteristiche della nube che può seriamente danneggiare. In altre parole, i livelli di concentrazione, la tipologia delle ceneri, le dimensioni della cenere sono un qualche cosa che è ancora molto scarsamente conosciuto. Per cui insomma c'erano tante incognite e comunque io non avevo la possibilità di scegliere, quindi ho preso una macchina e sono tornata a Roma in macchina. Professor Visconti, lei? Ma io penso che una politica, diciamo così, ragionevole di gestire queste situazioni avrebbe permesso a chiunque di volare, perché non è il primo vulcano che coinvolge il traffico aereo e purtroppo questa vicenda ha messo in evidenza la totale incapacità dell'Europa a gestire situazioni di questo genere, perché in Europa manca un ente che sovraintende al traffico aereo, come può essere negli Stati Uniti la Federal Aviation Agency, manca un ente in Europa che abbia le stesse funzioni che ha la NOAA negli Stati Uniti, quindi questo è un continente allo sbaraglio, ogni nazione pensa ai fatti suoi, ci sono questi uffici europei in cui sono dei funzionari che prendono l'autostipendi e che non fanno assolutamente l'interesse del cittadino europeo. Se pensi solo che i ministri europei ci hanno messo 4 giorni, 5 giorni per riunirsi, per decidere su queste situazioni, addirittura sono voluti 2 giorni soltanto per trasferire le informazioni da Strasburgo a Bruxelles o viceversa. Quindi questa vicenda ha messo veramente in evidenza, peraltro ci sono segni innumerevoli di questa incapacità europea a gestire certe situazioni che sono assolutamente normali. È evidente quindi che quanto è accaduto ha colto tutti impreparati. Secondo voi quali sono le conclusioni e gli insegnamenti che si possono trarre per il futuro? In realtà il professor Visconti ha detto una cosa giusta, nel senso che questi eventi sono eventi normalissimi. Quello che in realtà noi percepiamo come eventi, diciamo, eccezionali, in realtà è semplicemente dovuto al fatto che noi molto rapidamente nel tempo stiamo crescendo come numero, ci rendiamo sempre più vulnerabili ad eventi comunque che sono naturalissimi. Questa eruzione non è stata particolarmente grossa. Rispetto al passato, diciamo che l'unica differenza dal punto di vista vulcanologico è l'aviazione era abituata a nubi molto più delimitate geograficamente, magari anche più concentrate date da eruzioni maggiori, come ad esempio dai vulcani dell'Alaska, però erano ben delimitate geograficamente, per cui il protocollo era banalissimo. Ogni volta c'era una nube, lì non si volava, punto. Non ci si era mai posti il problema di quanto doveva essere dannosa effettivamente quella nube. C'era un principio di precauzione, ma ci se lo poteva permettere perché di fatto geograficamente queste nubi erano limitate. L'unica cosa che succedeva è che c'erano problemi malissimi, che era molto facile da prevedere. Nel passato sono successe eruzioni anche più grosse dall'Islanda che hanno causato addirittura dei cambiamenti climatici su tutto l'emisfero nord. In realtà però la scienza e comunque anche bene o male chi deve prendere decisioni tende sempre a correre dietro le emergenze, non ad anticiparle. Io le faccio un esempio. Tempo fa erano stati proposti dei progetti europei sulla vulcanologia dicendo che l'Islanda e altri vulcani potevano in effetti creare un problema a livello europeo. Era stato risposto che in realtà i vulcani erano solo un problema italiano, per cui non era qualcosa che interessava particolarmente a livello europeo. Questo per dirle che di solito l'ottica di chi prende queste decisioni va indietro 5 anni, 10 anni, In realtà i fenomeni geologici normalissimi, ripeto, normalissimi, hanno tempi leggermente più lunghi, ma se noi continuiamo a correre dietro spendiamo sempre più soldi e non risolviamo i problemi. Del terremoto qui all'Aquila, no? Il terremoto non è, abbiamo visto che in tempi recentissimi sono stati terremoti di maggiore intensità, però questo terremoto all'Aquila ha praticamente distrutto il centro storico e messo in crisi l'economia dell'Abruzzo, eccetera. E la ragione è molto semplice, perché quelli che erano, diciamo così, le raccomandazioni formulate sulla sismicità della zona, e quindi le raccomandazioni sul tipo di costruzioni che bisognava fare, eccetera, sono state completamente ignorate. E questo del vulcano è un caso molto simile, cioè una situazione quindi relativamente normale che per incapacità, per trascuratezza, soprattutto delle autorità politiche, si trasforma in un'emergenza di dimensioni assolutamente sproporzionate. Quindi non è tanto la scienza che in qualche modo deve migliorarsi, perché le conoscenze scientifiche al momento attuale sono sufficienti per mettere riparo a molti di questi problemi, quando piuttosto i politici devono in qualche modo ascoltare le raccomandazioni che la scienza fa da tanti anni, quindi non è che le fa oggi, oppure come diceva il dottor Marzocchi bisogna inseguire continuamente queste emergenze. La scienza queste cose le prevede da anni, quindi sono fenomeni normali, purtroppo è l'incuranza della classe dirigente politica che genera poi queste emergenze. L'abbiamo visto come ulteriore esempio in questa occasione, quando si è deciso di riaprire i voli la sera precedente, e la mattina sono stati risospesi i voli dopo 2 ore, ancora non si sa in base a che cosa, perché di fatto non esistevano delle misure quantitative, almeno nel sud Europa, dell'entità di questa polvere, e quando si è presa la decisione di richiudere gli aeroporti non esistevano comunque queste misure. Per cui è veramente una situazione di assoluto caos generato secondo me dall'incapacità della classe dirigente. Entrambi avete citato il fatto di prevedere questi eventi naturali, anticipare le emergenze, ma siamo veramente arrivati già a questo punto, nel senso, voi parlate di una comunità scientifica che ha i mezzi e che comunque preannuncia degli eventi, e mi sembra di aver capito, se ho percepito bene quello che entrambi avete detto, che è la classe politica che non reagisce a questi campanelli d'allarme, cioè significa che a livello internazionale, europeo, ma anche italiano, la ricerca ha gli strumenti necessari per prevedere queste emergenze e dunque per anticiparle? Dunque, chiariamoci sul termine previsione. Noi non è che siamo capaci di dire esattamente, almeno per quello che riguarda i vulcani e i terremoti che sono il mio ambito, non sappiamo dire esattamente succederà questo il tal giorno, alla tal ora e così. Però, citando ad esempio il terremoto dell'Aquila o citando questa eruzione, se uno avesse, cioè noi siamo in grado di sapere che questi eventi avverranno con una certa alta probabilità in un certo intervallo di tempo. Mi spiego, se uno avesse detto che cosa è probabile che succeda nei prossimi 10 anni in Europa, la probabilità di avere un'eruzione del genere era piuttosto alta. Quindi noi, per quello che riguarda il nostro settore, noi ragioniamo in termini di probabilità, che non vuol dire che non siamo certi, però in realtà che ci sono buone probabilità che queste cose succedano. Quindi quando succedono non sono delle sorprese. Quello che secondo me manca comunque è un link, diciamo una connessione forte con chi deve prendere decisioni. Cioè chi deve prendere decisioni deve sapere che noi comunichiamo delle informazioni scientifiche che hanno determinate incertezze, in certi settori sono più ampi, in certi altri settori sono meno ampi. Comunque comunichiamo delle informazioni, fino adesso queste informazioni rimangono così. Cioè vengono prese e non si sa bene che cosa farne. In realtà manca proprio una procedura, uno studio per diciamo creare un protocollo di decision making che parta dall'informazione scientifica e in base a certi criteri oggettivi trasformi questa informazione in azioni. Ovviamente questo non significa che il decision making non deve aspettare che noi saremo in grado di prevedere esattamente le cose, però insomma, bene o male, noi abbiamo messo in piedi un sistema molto vulnerabile, con tanti spostamenti in aeroplano, e abbiamo completamente trascurato un fenomeno che succede sicuramente con alta probabilità, tipo che ci siano delle ceneri vulcaniche verso l'Europa. In questo caso qui voglio dire che la scienza qualcosa sa, ovviamente speriamo di sapere di più, speriamo di saperne sempre di più, ma il problema grosso è che quel poco che sappiamo, poco o molto che sia, non viene utilizzato in una maniera razionale. Questo è una certezza, e posso dire che non è solo l'Europa, ma io sono qua negli Stati Uniti a un meeting di sismologia, vedo che anche loro hanno problemi analoghi, ecco. Quindi questo secondo me è il grande challenge per il futuro, che i decision makers, possano essere politici oppure organizzazioni internazionali, devono utilizzare al meglio le informazioni scientifiche tramite dei protocolli che devono essere stabiliti il prima possibile per determinati tipi di rischio. Professor Visconti? Beh, dunque, per quanto riguarda, diciamo così, la parte atmosferica nella quale posso dire qualcosa, il problema in questo caso, per esempio, era quello che una volta avuto, diciamo così, una volta che si è verificata l'eruzione, è quella fondamentalmente di prevedere il percorso della nube, e quindi come si propaga la polvere, eventuali prodotti dell'eruzione nei cieli europei. Questo, nei primi giorni di questa eruzione, è stato fatto apparentemente quasi esclusivamente dal Met Office, con dei metodi che sono rimasti sconosciuti, fino ad oggi sono sconosciuti, sapere il tipo di modello che usano, quindi effettivamente queste previsioni erano molto sospette perché presentavano delle intrusioni in regioni dell'Europa che sembravano molto strane. In più, l'altro aspetto che è mancato fino a ieri, erano misure della consistenza della nube, e questo tipo di misure si possono fare in diversi modi, si possono fare da satellite, ma soprattutto si possono fare da terra con una rete LIDAR, quindi di radar ottici, che sono in grado di stabilire con una certa precisione almeno l'ammontare della nube, la distribuzione di questa polvere in quota. In Europa una rete del genere esiste, ma esiste, diciamo così, su basi puramente scientifiche, fa parte di un progetto europeo finanziato quindi dalla Comunità Europea, ma che non ha, diciamo, scopi di allerta o scopi di monitoraggio della sua. È una specie di outcome di un progetto scientifico, quindi quello che manca di nuovo è una struttura. Se in Europa esistesse una struttura come la NOAA, come c'è la NOAA negli Stati Uniti, che gestisce satelliti meteorologici, satelliti per l'ambiente, eccetera, e gestisce anche la rete di misura a terra, questo problema, i problemi che sono visti, cioè quello di basare delle decisioni gravi sulla totale assenza di dati veri, perché questa è la realtà, quello che è successo in questi giorni fondamentalmente è questo, e la presenza di un organo di questo genere garantirebbe una capacità di monitorare e quindi di prendere delle decisioni a ragione veduta. Questo oggi in Europa, ripeto, manca. Esiste un'agenzia europea per l'ambiente che distribuisce soldi di qua e di là, ma non ha nessuna struttura operativa. Quindi questo è un po' il discorso che facevo all'inizio e che è l'aspetto più grave di questa vicenda, secondo me. Warner, Guido, si è parlato anche di altre possibili conseguenze attribuite alla nube, la sua interferenza con il clima, il rischio che possa attenuare la radiazione solare, raffreddare la temperatura della Terra, la ricaduta al suolo e eventuali effetti sulla salute umana. Ecco, possiamo esplorare questo aspetto, voi che cosa ne pensate? Dunque, dal punto di vista vulcanologico tenderei a escludere entrambe le cose, nel senso che comunque, almeno per i cittadini europei, un contatto diretto con queste ceneri, se c'è, è praticamente insignificante. Ovviamente i problemi di salute possono esserci per gli islandesi, perché queste ceneri, oltre che avere un effetto diretto se inalate, possono anche, creare creare degli inquinamenti alle falde acquifere e così via. Quindi per gli islandesi c'è un problema, per gli europei lo trascurerei questo effetto qui. E trascurerei anche gli effetti climatici, ripeto, noi stiamo parlando di un'eruzione piccola. Un'eruzione piccola, media, ma sicuramente ci sono state, ci sono spesso eruzioni molto più grosse. È possibile che le eruzioni cambino il clima, è successo nel passato e risuccederà sicuramente nel futuro, però ad esempio l'altra eruzione dell'Islanda che citavo prima, del 1783, che ha cambiato il clima per un anno su tutto l'emisfero nord, era 3 o 4 ordini di grandezza più grandi, cioè significa più di migliaia di volte più grande di questa. Questa, diciamo, quella lì fu in grado di cambiare il clima per un anno almeno. Questa qui è, dal punto di vista dei materiali emessi per un effetto serra, chiamiamolo così, secondo me è trascurabile. Ma le eruzioni vulcaniche, per avere un effetto sul clima, devono essere innanzitutto di tipo esplosivo, ma in grado di immettere direttamente in stratosfera, quindi al di sopra dei 15 km, immettere enormi quantità di gas. Per esempio, la più recente da questo punto di vista è quella del Pinatubo del 1991, che ha immesso in atmosfera circa 20 milioni di tonnellate di anidride solforosa, che poi si trasforma in acido solforico e quindi in aerosol che possono effettivamente diminuire la radiazione solare che raggiunge la superficie. In questo caso alcune stime parlano, prima abbiamo parlato di 20 milioni di tonnellate, qui parliamo di 200.000 tonnellate, quindi una quantità molto più piccola, non solo, ma questa polvere è rimasta in gran parte in troposfera, quindi al di sotto dei 10 km, e questo significa che questi diciamo, gas o polveri vengono dissipati molto più rapidamente, quindi un effetto sul clima è da escludere, ugualmente l'effetto sulla salute è da escludere se non nelle immediate vicinanze dell'eruzione. L'eruzione a cui si riferiva il dottor Marzocchi, quella del Laghi del 1783, è un'eruzione che dura un anno e immette in atmosfera qualcosa come 120 milioni di tonnellate di gas veramente pericolosi, oltre a anidride solforosa anche acido solfidrico, e quindi che ha un impatto diretto sulla, infatti in quell'occasione sono morte circa 20.000 persone in Europa, proprio come diretta conseguenza, diciamo così, chiamiamola asfissia da questi gas. Quindi per essere pericolosa un'eruzione o da un punto di vista climatico immettere grandi quantità di polvere, e questo è successo anche in altri casi come il Tambora, il Krakatoa, eccetera, eruzioni storiche di grandissima portata, oppure come nel caso eruzioni effusive come quella del Laghi, che hanno immesso grandissime quantità di gas veramente benefici in atmosfera. Entrambi avete citato grosse eruzioni del passato, del recente passato, oppure anche eruzioni storiche. Come siamo messi a livello di previsioni per il prossimo futuro? Se non sbaglio, in Islanda una leggenda, o non so io se sia vero o meno, parla di 3 vulcani che si svegliano uno di seguito all'altro. A quanto pare questo, con questo nome così impronunciabile, è il secondo che si è svegliato, dunque ci sarebbe un terzo che sta, non so, che magari si sta risvegliando. Si sta preparando. Ma guardi, cosa pensate? Ma in realtà, guardi, il fatto che ci siano delle correlazioni tra eruzioni tra vulcani vicini in Islanda è abbastanza noto ed è una cosa anche conosciuta, ma non mi preoccupa affatto. Ripeto, la maggior parte delle eruzioni in Islanda sono di carattere effusivo, i quantitativi di gas e di ceneri emessi sono solitamente molto piccole e comunque limitate alla prima parte delle eruzioni, nel senso che anche se il terzo vulcano entrasse, diciamo, in eruzione e magari anche l'eruzione generata fosse anche nettamente la più grande delle altre, non è assolutamente detto che debba avere un carattere esplosivo. Per cui in realtà tenderei a non essere particolarmente preoccupato, cioè non è che ci sia un'escalation necessariamente. Ripeto, queste cose sono sempre successe, il secondo vulcano, diciamo che poi è sempre un'eruzione che ha spostato il suo centro, è stata molto più esplosiva della prima fase che è iniziata alla fine di marzo, la terza eruzione, se ci sarà, potrebbe essere anche più grande, ma ripeto, non necessariamente esplosiva, perché sono piuttosto scarse le eruzioni esplosive in Islanda, e quindi sì, ci può essere, ma rientra nella normalità e poi quindi non necessariamente porrà un rischio diretto all'Europa. Io un'ultima cosa vorrei dire, cioè se questa eruzione fosse avvenuta 70-80 anni fa, gli europei non se ne sarebbe accorto nessuno, semplicemente perché non ci sarebbe stata l'aviazione, no? A quell'epoca. Per cui io quello che voglio dire è che comunque stiamo parlando di un evento che è sempre successo e sempre avverrà. Ora, il problema è che noi aumentiamo a dismisura la nostra vulnerabilità, la nostra esposizione al rischio senza curarci poi degli effetti. Poi quando queste cose succedono rimaniamo imbambolati. No, in Islanda, come in Alaska e in altre parti del mondo, continueranno a eruttare vulcani, ci saranno sempre queste nubi di cenere, dobbiamo semplicemente imparare a conviverci in una maniera un po' più razionale di quanto è stato fatto fino adesso. Dottor Visconti? Io non sono un esperto, quindi non posso dire cosa ci riserva il futuro, però sono d'accordo su questo aspetto della vulnerabilità, nel senso che questo ormai succede per qualunque fenomeno, per esempio prendiamo gli uragani oppure il tempo severo, eccetera, si dice che sono aumentati negli ultimi anni perché c'è il riscaldamento globale, eccetera. In effetti quello che è aumentato sicuramente è la vulnerabilità del sistema ad eventi che possono rimanere della stessa intensità, però diciamo così, hanno un impatto molto più forte, evidente, proprio perché invece i sistemi sono diventati molto più vulnerabili, cioè quello è un evento che appunto 100 anni fa non avrebbe avuto nessun effetto, che so io, sulle telecomunicazioni, perché 100 anni fa le telecomunicazioni erano dei livelli assolutamente, diciamo oggi lo stesso evento può avere degli effetti veramente catastrofici, e quindi questo aspetto della vulnerabilità secondo me è molto importante, e purtroppo è un altro argomento che non viene mai discusso dai governi, non viene mai discusso da chi gestisce queste situazioni, invece è molto importante. Posso aggiungere una cosa? Sì, prego. Perché... Pronto? Sì, prego. Barne. Ah, ok. Aggiungo una cosa. In realtà, perché molto spesso le persone mi chiedono se la Terra stia diventando più cattiva, perché ci sono sempre più terremoti, più eruzioni, ribadisco quello che ha detto il professor Visconti, la Terra fa quello che ha sempre fatto, la Terra è completamente disinteressata a noi, fa quello che ha sempre fatto, semplicemente siamo noi che adesso abbiamo una percezione dei disastri molto più elevata, perché siamo noi che stiamo aumentando a dismisura la nostra esposizione a tali rischi, ma gli eventi, il numero di terremoti, il numero di eruzioni rimane più o meno sempre lo stesso. Annalisa, un'ultima domanda dallo studio? Un'ultimissima domanda per i nostri ospiti. Warner, Guido, possiamo quindi rassicurare i nostri radioascoltatori? Ora è sicuro volare? Per quello che mi riguarda, ripeto, noi, almeno io come scienziato mi sento in grado di dare informazioni scientifiche. Ripeto, avevo già forti dubbi che le nubi nella parte distale fosse veramente pericolosa. L'unica cosa su cui mantengo una certa vaghezza appositamente è perché io non ho minima idea, e da quello che ho capito anche molti ingegneri aeronautici non hanno la minima idea di che cosa è, quali sono le caratteristiche che creano problemi effettivamente agli aeroplani. L'unica cosa che posso dire, so per certo che sono stati mandati degli aerei vuoti senza passeggeri con alcuni piloti consci del potenziale rischio, sono stati fatti dei voli di prova e da quello che ne so i risultati sono stati ottimi. Quindi io adesso sono negli Stati Uniti, tornerò in Italia sabato e non ho nessun problema a prendere un aereo. Dottor Visconti, ma io direi che appunto attualmente non, anche le ultime misure, almeno in Italia, settimana la totale assenza di polvere in atmosfera. In più rifletterò su una cosa, che in Italia, nel sud Europa in genere, sono spesso delle intrusioni di sabbia sahariana che avvengono più o meno alle stesse quote cui ci si aspettava questa volta polvere vulcanica, e nessuno si preoccupa, eppure sono molto evidenti, presenti nel colore delle piogge oppure nel colore del cielo, quindi la quantità di sabbia che in questi casi è presente in atmosfera è molto più alta, eppure non mi risulta che vengano sospesi i voli degli aerei in quelle occasioni. Bene, Alessandra, non ci resta che ringraziare i nostri ospiti, Warner Mazzocchi e Guido Visconti, un ringraziamento dallo studio qui a Bruxelles, Giro di Boa, per il vostro interessante contributo alla trasmissione di questa sera. Speriamo di rivedervi in futuro come ospiti e quindi non ci resta che augurarvi buon lavoro. Sì, un saluto e un ringraziamento anche da me, all'AIA, che volerò in Italia fra qualche giorno, dunque senza nessun scrupolo e senza nessun problema, sperando ovviamente che le compagnie aeree riprendano a volare, ovviamente. Va bene. Buonasera a voi allora. Buonasera. Grazie, buonasera, buon lavoro. Arrivederci. Alessandra, quindi non ci resta che salutare i nostri radioascoltatori e dare l'appuntamento quindi alla prossima puntata, alla prossima trasmissione di Giro di Boa. Buona serata a tutti.